Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Boxcar Berta di Berta Thompson. Capitolo 11. Davanti a me c'erano 20 donne. Avanzavano lentamente. Nessuna faceva caso alle altre. Sembravano una fila di automi che si muovevano verso qualcosa che non ci interessava e non ci riservava piacere né speranza. Finalmente entrai e mi trovai davanti a un tavolo. «Sei mai stata qui?» mi domandò un impiegato. «No», risposi. «Vai di sopra a registrarti», disse asciutto. Poi si rivolse a quella che era in fila dietro di me. Al piano di sopra mi chiesero se sapevo scrivere e mi fecero sedere a compilare una scheda di registrazione. La consegnai all'impiegato che mi diede un cartoncino di identificazione blu e una piastrina di metallo con il numero del mio letto, che dovevo tenere al collo quando andavo a fare la doccia e dormivo. Seguii la fila fino alla mensa e presi posto a un tavolo. Ci servivano un discreto stufato di manzo con tre grandi fette di pane, una tazza di tè al latte e un piatto di albicocche cotte. Mangiammo in silenzio, poi attendemmo di essere chiamate. Al deposito fagotti una sorvegliante mi fece qualche domanda. «Stai cercando lavoro? Che cosa sai fare? Vuoi andare a servizio? Possiamo trovarti un impiego?» «No, grazie», risposi. «Credo di poterlo tentare da sola. Lascia qui la borsetta. Gliela porsi. A casa di mio padre avevo pagato il mio vitto. Poi avevo spedito dei soldi alla mamma, perciò non mi era restato molto denaro». Quando tutte ebbero depositato le borse e gli effetti personali, la fila si mosse verso il bagno. Fare il bagno era obbligatorio. I nostri vestiti furono appesi su grucce e sottoposti a fumigazione. Per dormire ci diedero delle camicie da notte. Nel bagno ebbi modo di osservare le mie compagne. Constatai con sorpresa che erano quasi tutte anziane. Intorno a me vedevo soltanto corpi flaccidi e deformi, capelli grigi e radi, volti segnati da mille esperienze, occhi stanchi e spenti. L'età media, seppi poi, oscillava tra i 40 e i 50 anni. Ma la maggior parte delle donne ne dimostrava di più. Nel complesso avevano l'aspetto di casalinghe di mezza età, che avevano lavorato sodo tutta la vita. Non sembravano certo criminali. Le negre erano circa il 10% e per il resto c'era qualche polacca, qualche lituana e qualche inglese. Una minoranza mostrava di essere dedita all'alcol. Alcune erano evidentemente vagabonde, tutte indistintamente portavano il marchio della povertà. La maggior parte aveva un atteggiamento cordiale e ciarliero. La metà mi dissero di essere rimaste vedove, all'incirca una su quattro raccontava più o meno la solita storia. «Ci hanno demolito la casa, mio marito ha perso il lavoro, non ce la facevamo a pagare l'affitto, il mio vecchio è qui accanto nel reparto uomini». Alcune erano al dormitorio soltanto da pochi giorni, altre da mesi. La maggior parte vi tornava periodicamente. Quando trovavano un lavoro, se ne andavano, poi tornavano, quando erano di nuovo nei guai. Tra un lavoro e l'altro, il dormitorio municipale era come una casa per loro. Non udii mai storie drammatiche, tragiche. Le ospiti del dormitorio accettavano senza risentimento il fatto di essere un prodotto del sistema, di una società che assume e licenzia e nella quale i padroni di casa devono riscuotere l'affitto. Erano poche quelle come me che non avevano bisogno di quel posto, vagabonde in cerca di avventure. I letti a castello di ferro avevano materassi soffici, cuscini e lenzuola e federe puliti. Non dormii molto, però. Molte delle donne tossivano, brontolavano e parlavano nel sonno. E non poche continuavano ad andare avanti e indietro dal letto al bagno. Al mattino ci fu servita una colazione a base di pane, caffè e cereali. Io dovetti fermarmi 2 ore per aiutare a rifare i letti e a pulire. Poi impiegai un'altra ora a battere a macchina alcune schede. Prima che me ne andassi, la sorvegliante mi restituì la borsetta e mi domandò se volevo un lavoro. Al Bellevue hanno bisogno di un paio di inservienti. Non è male come impiego. No, grazie, le dissi. Credo di poter trovare un lavoro da sola. Lasciai l'edificio in compagnia di 2 irlandesi, Mary e Martha. Erano tutte e 2 sulla 50ina, sciupate dal lavoro e dal whisky. Mary era alta, magra, sfoderava enormi sorrisi con la bocca senza denti e aveva 2 lividi giallo-blu sotto gli occhi, al ricordo di una recente rissa in un salone. Martha era più piccola e aveva un colorito acceso, malsano, sulle guance. Usava una sola forcina d'osso per fissare i capelli color grigio ferro, che perciò le scivolavano continuamente sul collo. «Ho bisogno di bere qualcosa», disse Mary. «Facciamo un salto da Device, che ci darà un goccetto a credito». Risalimmo la prima Avenue, fino all'angolo con la 18ª strada. Entrammo in uno spaccio clandestino, sedemmo a un tavolo e aspettammo che il barista, un tipo grande, grosso e ridanciano, venisse a servirci. «Come va la vita a Ritz?» disse, rivolto a Mary. «Suppongo che tu voglia da bere, che mi pagherai questo pomeriggio. E chi è la tua amica? Ah, e tua figlia che cosa prende?» «Lo stesso della mia amica». Mise sul tavolo una bottiglia di whisky da 1/4, con 3 bicchieri, senza acqua. Li riempì tutti e 3 e vuotò il suo in un sol colpo. Io la imitai. Sedute ai tavoli intorno c'erano altre 5 donne, tutte ospiti del dormitorio municipale. «No, non vi darò altro finché non mi pagate», ci apostrofò amichevolmente il barista, quando Mary lo richiamò. «Uno per aprirvi gli occhi. L'avete avuto. Ora andate fuori e procuratevi qualche soldo se ne volete dell'altro». «Come ve li procurate, voi donne, i soldi per bere?» chiesi alle mie amiche. «E come se li procurano gli altri?» rispose Martha. «Li guadagniamo, li mendichiamo, li rubiamo o li troviamo». «Beh, e tu in particolare come fai? Dunque, fammi pensare. Ieri ho fatto 90 centesimi. Mio figlio Tim, che è portinaio in un condominio, me ne ha dati 50. Poi sono andata a trovare la signora Cobre, per la quale ho lavorato 1 volta, e ho rimediato 1 pranzo e altri 25 centesimi. Gli altri 15 me li ha dati un vecchio che ho fermato per la strada. E tu, Mary, come hai fatto?» «Oh, è stato facile. Ieri era giorno di paga giù al porto. Il mio vecchio ha fatto lo scaricatore per 15 anni e gli uomini mi conoscono, perciò mi è bastato gironzolare un po' lì intorno e alcuni dei ragazzi che lavoravano con mio marito mi hanno dato qualche spicciolo. Ho fatto più di $2. Bravo che Device ce ne desse un altro prima di dover pagare, ma poiché non lo fa, ecco che se ne va il mio ultimo quartino». Ordinò 1/2 litro di whisky di contrabbando e invitò tutte le donne a bere. Era il gruppo di donne più scalcagnato e sbrindellato che mi sia mai capitato di incontrare. Nessuna di loro era mai stata sulla strada o fuori da New York. «Vuoi sapere anche da me come mi sono procurata i soldi?» disse una donna piccola e paffutella che avevo visto fare il filo a tutti gli uomini nel locale. «Li ho guadagnati. Me li guadagno sempre. Ieri ho lavorato in una lavanderia nello scantinato per una famiglia ebraica. Hanno 7 figli. Ho lavato, stirato e strofinato e mi hanno dato 1 dollaro più i soldi del tram». Una donna inglese, alta, con un vecchio tailleur e con una treccia bionda avvolta accuratamente intorno al capo, fu la prima a parlare. «A me i soldi li ha dati un signore, ma non per niente, ragazzina. Ti piacerebbe conoscerlo?» Ellen, gamba di legno, una donna di 40 anni, dalla corporatura massiccia, con gli occhi e i capelli neri, che aveva un piede solo e camminava appoggiandosi a una gruccia fatta in casa, disse: «Io i miei $2.50 me li son fatti dando l'elemosina sulla via principale. Me li hanno dati quasi tutti in monetine, perciò ho dovuto stare fuori 6 ore». Una donna di oltre 60 anni, dall'aria triste, rannicchiata in un cantuccio, con un vecchio golf intorno alle spalle, disse: «Io non sono riuscita a beccare neanche un centesimo. Ho cercato di guadagnarmi la giornata lavorando e mi hanno mandato all'ospedale, ma non avevo la forza di strofinare e pulire. Ho un tale raffreddore». L'ultima delle 5, una donna prosperosa e chiacchierona, che entrando nel locale si era tolta una benda nera dall'occhio sinistro perfettamente sano, disse: «Io faccio la venditrice ambulante. Vado in giro per i ristoranti e per i negozi, con fiammiferi, bottoni e stringhe, e riesco sempre a tirar su da $0.50 a $1 al giorno. Ma più guadagno, più bevo». Di lì a poco si unì a noi un gruppo di uomini, anch'essi ospiti del dormitorio municipale. Vecchi, rigidi, con abiti che la sporcizia e le ripetute fumigazioni avevano ridotto a un unico colore, il colore della povertà. Formavano un gruppo eterogeneo. Alcuni erano storpi, molti avevano denti mancanti, tutti avevano bisogno di tagliarsi i capelli. I loro visi da vecchi erano segnati dal dolore, dalla delusione, dalla debolezza. Avevano lo sguardo appannato, tipico dei bevitori abituali. Anch'essi compravano bottiglie di liquore contando, come le donne, i centesimi, i quartini e i nichelini che si erano procurati mendicando o facendo pochi lavori strampalati. Chiesi a Ida di spiegarmi che cosa faceva una donna più giovane delle altre, pallida ed evidentemente incinta, che era seduta a un tavolo insieme a 2 vecchi, male in arnese, e stava cominciando ad agitarsi e a ridere. «È una mendicante anche lei», mi disse, «e sono anni che è incinta così, ma non ha mai avuto il bambino. Aspetta che vada al gabinetto e la vedrai ritornare con la pancera in mano. Andrà avanti a bere finché avrà soldi, poi scomparirà. Rimetterà la pancia finta e uscirà di nuovo, in strada, a commuovere la gente con il suo aspetto patetico e a chiedere soldi per amore del suo bambino non ancora nato. In seguito vidi molte donne come quella sulla strada, ma non mi capitò più di trovarne così tante insieme e rilassate, in libertà, come quel giorno nel locale di Device. Alcune erano veramente cieche, sorde o mute. La mia informatrice chiamava le sordomute SM. Quelle senza braccio si chiamavano Alucce. Quelle senza una gamba erano soprannominate gamba di legno. Le deboli di mente e le pazze erano dette zuccone. Quelle affette da tremori pronunciati causati dall'alcolismo si chiamavano tremarelle e le epilettiche agitate. Infine, le ruote erano quelle che avevano le gambe amputate all'altezza del bacino e circolavano in carrozzella. C'è un gruppo di accattoni professionisti che imitano ogni tipo di menomazione in modo così perfetto che soltanto un esperto potrebbe smascherarli, mi spiegò l'inglese. Quella donna laggiù all'angolo, con quelle orrende piaghe sulle braccia, è una vescica. Si è procurata le piaghe da sé, versandosi dell'acido sulle braccia. Va in giro a chiedere l'elemosina dicendo che le servono soldi per andare dal medico. Indicò un giovane dall'aspetto normalissimo che stava bevendo al bar. Sembra a posto, ma aspetta che si prepari ad andare in strada. È uno slogato. fa uscire le articolazioni di entrambi i gomiti e di uno dei polsi e sembra un mostro scappato da un museo. Ce ne sono altri che piegano il polso e legano la mano all'indietro in modo che non si veda. Li chiamano mani nascoste. Questi, insieme agli afflosciati, cioè quelli che si fingono storpi e stanno tutto il giorno seduti davanti alle chiese e ai portoni, e ai fantasmi, cioè quelli che diventano pallidi e macilenti e simulano la tosse tubercolare, sono gli accattoni che guadagnano di più, ma nessuno di loro ha un soldo da parte, li spendono tutti qui. Rimasi a bere senza sosta fino alle 4 del pomeriggio, poi mi addormentai. Quando mi risvegliai ero in un letto, completamente nuda, insieme a un uomo che aveva l'aria di un bruto. Il suo corpo era sporco. Si era tenuto le calze e gli allusci gonfi che spuntavano dai buchi parevano grigi. Tanto erano sudici. Mi tirai su. «Dove sono?» gridai terrorizzata. «Da amici», disse l'uomo con un'espressione lasciva. «Bevi un goccetto». «Che posto è questo?» Siamo nella 10ª strada, vicino alla Avenue. Come sono arrivata fin qui? Lasciatemi andare. I miei vestiti e il soprabito erano ammucchiati disordinatamente da una parte. Guardai nella borsetta e la trovai vuota. Era sparito tutto, le mie lettere, una banconota da $10 che avevo nascosto nella fodera e un diario, la cosa più preziosa che avevo. Gridai, smaniai, mi infuriai, ma l'uomo nel letto mi rise in faccia. Tuttavia non fece obiezioni quando cominciai a rivestirmi, perciò, disperando di riavere le mie cose, cercai di sbrigarmi e di tagliare la corda il più presto possibile. Nauseata e affranta camminai fino alla Union Square e sedetti su una panchina. Mi vergognavo di me stessa. Quella volta mi ero spinta un po' troppo oltre nel tentativo di conoscere la gente più strana. Ora ero completamente al verde e non sapevo assolutamente che cosa fare. Non volevo tornare al dormitorio e non me la sentivo di ripresentarmi da mio padre. Presi la testa tra le mani e me ne stetti lì, disperata. Una voce mi riportò alla realtà. «Fa freddo stasera», disse un uomo che si era seduto accanto a me senza che lo notassi. Gli lanciai una rapida occhiata. Sembrava un tipo per bene ed evidentemente aveva pronunciato quella frase spinto da compassione nei miei confronti. «Avete di che offrirmi una tazza di caffè?» domandai senza guardarlo. «Giusto, giusto», rispose. «Andiamo». Bevvi due tazze di caffè e mangiai mezzo panino. Osservai il mio benefattore. Era piccolo di statura, calvo e indossava un abito grigio, un po' logoro, ma immacolato. Aveva una bocca morbida come quella di una donna, ma si esprimeva con asprezza. «Dove stai?» chiese. «Vorrei saperlo anch'io», risposi, cercando di ridere. «Qual è un buon posto dove stare?» «Beh, ti porterei a casa mia, ma la mia donna ci butterebbe fuori tutte e due. Però conosco un posto dove potresti andare se vuoi. Ho una vecchia amica, Edith Adams, che abita in un appartamento al Village e dà sempre ospitalità agli Obo. Vieni, ti ci accompagno». Trasalii alla parola Obo. Dunque mi c'era voluto un giorno soltanto per riacquistare l'aspetto della vagabonda. Diedi un'occhiata agli abiti costosi che Otto aveva rubato per me e che fino al giorno prima erano stati in buone condizioni. Ora sembrava che ci avessi dormito dentro all'addiaccio. Una calza era strappata. Avevo la pelle del viso indurita dalla sporcizia, ma non ci facevo caso, tanto ero depressa. L'uomo mi prese sotto braccio, mi accompagnò in Christopher Street, vicino a Washington Square, e mi presentò a Edith Adams. «Edith, ho trovato una hobo in Union Square, sta male e non ha un posto dove andare. Puoi prenderti cura di lei per stanotte? Ma certo, hai fame?» «No, vorrei solo andare al bagno e poi a letto, nient'altro». Rimasi a letto per oltre una settimana. Stavo malissimo e per diversi giorni ebbi una terribile gastroenterite. Ricordo che mi sembrava di gelare e che la testa mi doleva da impazzire. Edith Adams e una certa Christine mi accudirono giorno e notte. Quando cominciai a stare meglio, scoprii di non essere del tutto estranea alle due donne. Avevano conosciuto mia madre quando era venuta a tenere comizi in tempo di guerra e conoscevano anche mio padre. L'appartamento di Edith era al tempo stesso una pensione per vagabondi, una università hobo, un rifugio per bohemien giramondo e sicuramente una scuola di vita per anarchiche scavezzacollo. Aveva 7 stanze e un bagno enorme che doveva essere stato ricavato da una camera da letto. L'arredamento era approssimativo, ma l'ambiente aveva un suo rozzo fascino. Con estro inimitabile, Edith affiggeva alle pareti manifesti radicali e carpiva bei quadri moderni agli artisti che frequentavano la sua casa. Ma una cosa soprattutto ricorderò sempre. In tutte le stanze e persino nel bagno c'era un letto e un divano letto. Quando conobbi meglio la padrona di casa, ne compresi il motivo. Edith era una donna imponente, dai lineamenti fortemente marcati, con il viso sormontato da una zazzera ispida e incolta, di capelli rossi tagliati corti. Socchignava sempre, non usava mai cosmetici. A quanto si sapeva, viveva con il marito, Mac, che era quasi sempre lontano perché lavorava come motorista in un transatlantico, ma le mandava tutti i soldi che guadagnava. Edith era nata nel Kansas all'inizio degli anni Ottanta. Aveva vissuto lì fino all'età di 23 anni. Poi si era trasferita a New Orleans e aveva sposato un barbiere. A quell'epoca aveva cominciato a frequentare le riunioni intellettuali progressiste e radicali e a nutrire interesse per la Fratellanza della Vita Quotidiana, la prima organizzazione fondata dal dottor G. Hetz Howe. Quando Howe aveva iniziato a indire i raduni hobo, Edith era entrata a far parte del suo gruppo e aveva coinvolto nell'organizzazione tutte le donne hobo di St. Louis. Era passata dal socialismo agli IWW, ai gruppi anarchici, e anarchica era rimasta ormai da un quarto di secolo. Un'anarchica buona, generosa, ricca di esperienza e intraprendente. Non si poneva alcun limite lei, non teneva in alcun conto la religione e le convenzioni e dava anima e corpo per la rivoluzione. Edith aveva vissuto soltanto pochi anni con il proprio marito a New Orleans. Subito dopo si era trasferita a Chicago. Era andata a vivere con gli Ussi Parsons e aveva preso a frequentare assiduamente i gruppi anarchici. In particolare aveva lavorato attivamente con Vucci Foster e con Earl Ford ed era con loro all'epoca in cui avevano scritto il famoso pamphlet Il sindacalismo. Poi era andata a New York e si era stabilita nel Greenwich Village. La sua casa era diventata una delle più vive e conosciute di quel quartiere. Scrittori celebri, hobo, poeti, scultori e propagandisti erano diventati subito suoi amici. Tra questi c'erano Emma Goldman, Elizabeth Curley Flynn, Mary English, Anna Stransky Walling, Eve Adams, Margaret Sanger, Romani Mary, Eugene O'Neill, Ben Ben, Sadikiki Hartman, Hippolyte Havel, Jig Cook, Bobby Edwards e Franklin Jordan. Il suo appartamento in Christopher Street era sempre pieno di gente, sia di giorno che di notte. Edith mi disse: «Gli uomini, gli artisti e i filosofi da taverna vengono qui per fare quattro chiacchiere, per andare al cesso, per smaltire una sbornia dormendoci sopra, per sfuggire alle amanti e per farsi nuove donne. Le donne vengono per farsi un bagno, per sfuggire agli amanti e per trovare qualcuno che offra loro un pranzo o una bevuta. Ma soprattutto alla gente piace venir qui perché ci si può lasciare andare ed essere naturali. Tra gli intimi di casa c'era un'altra anarchica, della stessa pasta, una donna di nome Christine. Christine gestiva una piccola sala da tè nel village, sopra la Provincetown Playhouse. Il cognome della donna era Elle, ma quando si parlava del suo locale si diceva semplicemente da Christine. Edith e Christine appartenevano a quella ristretta categoria di donne che sente una particolare attrazione per gli hobo, intellettuali e per i ribelli di ambo i sessi. Tutte e due avevano sex appeal, ma anche una qualità più rara, la capacità di comprendere e di stimare sinceramente le persone di talento. Ai poeti, agli artisti, agli scrittori veniva spontaneo confidare all'una e all'altra i loro progetti, i sogni, le speranze. Uscivano sempre dall'appartamento di Edith con una maggiore fiducia in se stessi. Quella casa, però, non era frequentata soltanto da artisti anarchici, sostenitori del libero amore e leader operai, ma anche da qualche malvivente. Tra quelli che ebbi occasione di conoscere, la più interessante era senz'altro Mary Ireland, una tagliaborse iperfotografata. Mary era un tipo alto, angoloso, aveva i capelli neri e un viso calmo e aristocratico. Le sue foto erano esposte in tutti i grandi magazzini e il suo volto era familiare a tutti i sorveglianti. La sua specialità era svuotare i portafogli delle donne intente a far compere nei grandi magazzini. Mary Ireland era una signora, non c'era dubbio su questo. A New York aveva sempre alloggiato al Brevoort e in altri hotel di lusso. Cenava al ristorante in abito da sera e quando era fuori al lavoro vestiva sempre in tono, con la parte, indossava un severissimo soprabito scuro che la faceva sembrare una vedova e metteva soltanto un'ombra di rossetto. Un giorno passeggiavamo insieme nella Broadway. A un certo punto mi venne in mente che dovevo comprare una confezione di spille di sicurezza. «Te le prendo io», disse subito. «Ma vorresti rubare una confezione di spille da 5 centesimi?» domandai. «Non vale la pena di correre il rischio per così poco». «Io rubo tutto», spiegò. «Mi diverte di più che pagare». Mary era una risparmiatrice. Aveva trascorso circa metà della sua vita in carcere a Joliet, nell'Illinois, a Weepon, nel Wisconsin, ad Atlanta, in Georgia, a Pittsburgh, in Pennsylvania, e nella Auburn Prison di New York. Quando la conobbi era in libertà provvisoria, dietro una cauzione di $10,000. «Questa volta devo farla franca», mi disse. «Ne ho già 4 sul gobbo e se mi appioppassero un'altra condanna sarei considerata delinquente abituale e beccherei l'ergastolo». La sua attività le aveva fruttato complessivamente circa $100,000, mi spiegò, senza ombra di vanteria. «Ho investito $20,000 in obbligazioni di prima classe e in prestiti ipotecari su immobili», disse. «Metto insieme altri $5,000, poi mi ritiro». Una buona metà dei suoi illeciti proventi erano finiti nelle tasche di avvocati maneggioni. Un giorno scomparve, poi ricevetti un suo biglietto che diceva: «Sono alle tombe, vieni a trovarmi». Era stata pizzicata da Macy's. Avevo intenzione di andare a trovarla, ma non lo feci. E seppi poi che era stata condannata all'ergastolo come delinquente abituale. Avrebbe dovuto scontare la pena nella Auburn Prison, ma a causa del suo comportamento indisciplinato era stata trasferita a Matteawan, il manicomio criminale. Ciò nonostante, proprio l'altro giorno l'ho incontrata a Chicago, di nuovo sulla breccia. Rimasi da Edith 6 mesi, quell'anno. Per pagarmi il vitto e l'alloggio facevo le pulizie. Ero affascinata dalla gente che frequentava quella casa e ogni giorno imparavo qualcosa di nuovo. Eddie e Christine nutrivano un interesse sincero per il movimento rivoluzionario dei lavoratori. C'era qualcosa in cui credevano fermamente, rivendicavano il diritto di discutere in piena libertà come vivere la propria vita. Non erano immorali né amorali, non dipendevano da nessuno, lavoravano sodo, amavano le emozioni, la gente nuova. Una mattina, mentre stavamo facendo colazione, arrivarono Anna, Franklin Jordan e Lizzie Davis. Erano un po' che non vedevo mia sorella. Non era diventata più alta e sicuramente non pesava più di 55 kg, ma in compenso le si leggeva in viso la gioia di vivere e aveva un corpo più flessuoso, più sviluppato. «Come va con i tuoi uomini?» le chiesi. «A meraviglia», disse. «Ne ho avuti un sacco da quando ci siamo viste l'ultima volta e i due che ho adesso ti piaceranno, li dividerò con te». «Grazie, me li scelgo da me i miei amanti», risposi lievemente stizzita. «Ma uno dei miei l'hai già scelto», replicò trionfante, «è Franklin Jordan». Mi sentii stringere il cuore. Come corrono vicini i fatti della vita. Prima mia madre e io avevamo avuto il medesimo amante, ora mia sorella e io amavamo lo stesso uomo, l'unico con il quale avrei potuto desiderare di mettere al mondo un figlio. Franklin Jordan e io ci ritrovammo a un raduno di massa anarchico nel Bronx. Da Edith c'era sempre troppa gente, intorno non si poteva star soli a parlare. L'oratore principale al raduno sarebbe stato proprio lui e tramite Anna mi chiese di andare ad ascoltarlo. Era prevista anche la partecipazione di un altro celebre personaggio, ma ne conobbi il nome soltanto all'ultimo momento. C'erano 4 interventi in programma, prima di quello di Jordan, perciò sedemmo in una stanzetta accanto alla sala del Labor Lyceum, in attesa che venisse il suo turno. Mentre lo guardavo in quella stanzetta sentii rinascere in me l'antico desiderio. D'un tratto non ebbe più alcuna importanza che la mia sorellina l'avesse preso come amante o che egli stesso avesse amato dozzine di altre donne. Lo desideravo ancora, come sempre. «Oh, Jordan», proruppi, «voglio fare un figlio con te». Egli sorrise. «Temo che non ci sia tempo di provvedere al momento», disse. «Ti conviene correre a sederti in prima fila. Adesso, perché il prossimo in lista è un grande oratore italiano, Mallettini». Nell'udire quel nome diedi un balzo e scordai momentaneamente anche il desiderio per Jordan. Mi allungai verso di lui, gli scoccai un rapido bacio, poi corsi fuori e presi posto in sala, con il fiato sospeso in attesa di Mallettini. Non era cambiato affatto, lo stesso viso sereno incorniciato dalla barba, gli stessi occhi buoni. Ma la sua voce era un'ira di Dio e portava la folla al parossismo. Il pubblico era misto, c'erano ebrei, italiani e americani, ma non era necessario capire quello che diceva l'oratore per emozionarsi al suono delle sue parole, così come non è indispensabile capire l'italiano per apprezzare un bravo cantante lirico. Quando finì di parlare, fu salutato da un fragoroso applauso. Dopo di lui toccò a Jordan. Il suo fu un discorso pacato, professionale, logico, raziocinante, polemico, convincente, provocante, suadente. Mentalmente correvo incessantemente dalle parole all'uomo. Lo paragonai al primo amante E.A.O., poi a Lowell Schroeder, poi a Big Otto. Chi amavo di più, Mallettini o Jordan? A chi avrei chiesto di portarmi a casa sua? Sapevo di poter vedere Jordan in qualsiasi momento, optai per Mallettini. Dopo il raduno, un gruppo che comprendeva anche tutti gli oratori si trasferì a casa di un compagno italiano, dove cenammo e parlammo fino alle 2 del mattino. «Devi portarmi a casa con te», sussurrai a Mallettini. «Non ora, vediamoci un'altra volta», rispose. Indispettita me ne andai con Jordan, che non aveva udito i miei sussurri. Abitava in una stanzetta al 5° piano di un condominio nella 13ª strada. Non c'erano mobili, all'infuori di un letto matrimoniale, di un tavolo da cucina e di una libreria zeppa di libri. Sotto il letto c'era uno scatolone pieno di lettere, lettere d'amore, mi disse. Poi, infine, c'erano una grande caraffa per il whisky, 6 bicchieri e alcuni piatti. Ena e io andavamo spesso da Jordan nel pomeriggio. Ci aveva chiesto di non venire mai senza una bottiglia di whisky. E così facemmo. Con tutta la buona volontà non riuscivo a essere veramente gelosa di Ena. Lei non mostrò mai di essere gelosa di me e imparavo un sacco di cose da Jordan. «Dimmi qualcosa sulle lesbiche, Jordan», lo supplicai un giorno. «Sulla strada le chiamano donne in amore. Qui nel village ce ne sono così tante. Come sono? Tu hai avuto molte esperienze con loro? Che cosa le fa diventare così?» «Sono le figliastre di Dio», disse. «Anche tu ne conosci bene qualcuna. Yvonne, la ballerina, Mickey Mouse, la Vanesia e altre. Io ne ho conosciute tante e mi hanno reso sempre infelice. Non mi sono antipatiche perché sono diverse. Dio sa che non vorrei mai che tutti fossimo tirati con lo stampino. Ma perché sono tendenzialmente asociali, egoiste, sfruttatrici. Poche cercano di guadagnarsi da vivere onestamente. La maggior parte preferisce campare sulle spalle delle prossime. A eccezione dei drogati, non conosco un altro gruppo in cui si annidino tante truffatrici, malviventi, ladrungole di mezza tacca. I loro peccati sono infimi, di poco conto. La loro asocialità è meschina e gretta. Poche danno prova di coraggio, sia nelle storie d'amore, sia nel modo in cui si procurano di che vivere. Secondo me l'omosessualità è in gran parte artificio. Non è artificiale, soltanto il modo di esprimere sessualmente delle lesbiche e dei maschi omosessuali, ma anche il loro modo di muoversi e di parlare, il loro comportamento in genere. Ho conosciuto uomini che nella vita comune erano femminei e che nel giro di pochi mesi, stando in compagnia di uomini normali oppure in carcere, hanno perso ogni traccia della loro femminilità. E ho visto moltissime donne rudi e mascoline con i peli sul petto e tutto il resto diventare femminili al 100%. Ovviamente questa ambivalenza è un'ulteriore dimostrazione del loro infantilismo. Ma quel che più mi disturba negli omosessuali è che sono perennemente in caccia. Sono come i drogati. Non si accontentano di usarla loro, la droga. Devono fare proseliti. Vogliono ammaestrare tutti quelli che incontrano. Se non facessero così, sarebbero innocui, visto che non possono riprodursi. Gli uomini e le donne che conobbi frequentando Jordan e l'appartamento di Edith Adams e le cose che dicevano e facevano riempirebbero un libro. Ma tra tutti, il più pittoresco, affascinante e terribile era Sir Mille Amori, come lo chiamava Edith. Era poeta, scrittore, attore, uomo di spettacolo. Certamente era un grande amatore. Aveva pubblicato 2 volumi di poesie, diversi racconti, 2 saggi e una storia di culto sessuale. Aveva preso in affitto una stanza nell'appartamento di Edith e aveva un ingresso indipendente che dava direttamente sulla strada. Non era granché fisicamente parlando, altezza media, corporatura esile, capelli e baffi biondi tendenti a diradarsi con l'età. Di profilo poteva andare, ma visto di fronte aveva il viso sporgente, però gli occhi erano grigio-azzurri e avevano un'espressione personalissima. Ena aveva avuto un'esperienza con lui e ne era orgogliosissima. Con me aveva cominciato a gemere, a sospirare, a palpare e a frignare dopo 10 minuti scarsi, la prima volta che ci eravamo trovati da soli. «Calma, poeta», dissi, «sono disponibile, puoi avermi». «Sarai la numero 1001», disse Edith, che era entrata per caso proprio in quel momento. «Ci sto», continuai, «ma prima raccontami delle altre 1000». «Ser 1000 amori è quasi sempre sbronzo, ma quando è sobrio è un monumento di egoismo e, per quanto ne so, il più infedele degli amanti», disse Edith. «E come fa?» «Chiedilo a lui», rispose, lasciandoci soli. «Come conquisti le tue donne, poeta?» «Quali donne? Tu sei la sola donna che io abbia mai amato. In vita mia sei bellissima. La mia esperienza con Ser 1000 amanti non merita di essere raccontata. Fece l'amore a parole, nient'altro. Vedevo spesso Jordan. Ebbi anche qualche altro amante occasionale, ma nessuno che contasse veramente. Avevo in mente Mallettini. Lo rividi al raduno dell'11 novembre, nella East Broadway. Fu cordiale, come sempre, e indifferente, come sempre, ma ero decisa a non farmi respingere per l'ennesima volta. Dopo la manifestazione andai da lui. «Non ti lascerò andare», dissi. «Devi portarmi con te». «Ma io abito lontano, a Paterson», obiettò. «Potresti abitare anche a Filadelfia, per quel che mi importa», ribattei disperata. «Vengo con te». Mi pagai da sola il biglietto del treno. Non abitava a Paterson, ma 6 chilometri più oltre, in una vecchia fattoria a 2 piani, in fondo a una stradina secondaria. Mentre camminavamo in quella fredda sera rischiarata dalla luna, non disse una parola. Io mi aggrappai al suo braccio e lo supplicai. «Parlami, dimmi che mi ami», gridai. Mi diede dei colpetti affettuosi sulla mano con la quale mi tenevo al suo braccio. «Temo che tu non comprenda ciò che sto cercando di fare», disse. «Per l'amore, nel senso che tu intendi, non c'è spazio nella mia vita». «Dimmelo, che cosa stai cercando di fare? Mi hai fatto innamorare di te», dissi. Si fermò e mi guardò. Era pallido, severo. «Ti ho fatto innamorare di me? Che cosa vuoi dire?» Mi ritrassi e provai vergogna di quell'affermazione stupida, ipocrita, tipicamente femminile. «Mi dispiace», dissi. «Ho detto un'assurdità». Allora sorrise. «Che cosa vuoi da me, Berta?» domandò. Non risposi. «Già, che cosa volevo? Certo, non del sesso. O forse sì, forse era quello. Forse era soltanto cotta d'amore. Non desideravo un figlio da lui, ma da Jordan. Non volevo mettere su famiglia con Mallettini e neppure vivere con lui. Mi rendevo conto che non avrebbe potuto o voluto mantenermi. Allora, che cosa volevo da lui? Che cosa volevo da tutti gli uomini che mi attraevano? Avevano da darmi esperienza. Ecco che cos'era. Istintivamente sentivo che Mallettini aveva da darmi qualcosa che nessun altro uomo al mondo avrebbe potuto darmi. Ma non potei rispondere alla sua domanda. «Mi ami, Berta?» chiese ancora. «Sì», dissi a voce bassa, e percorremmo ancora una dozzina di passi lungo la strada campestre sotto la luna che proiettava strane ombre nei campi, prima che Mallettini parlasse di nuovo. «Ami il popolo, la classe lavoratrice?» Come una suora in procinto di prendermi voti, risposi appoggiando una mano sul petto e levando gli occhi al cielo. «Sì!» «Allora vieni con me». Erano le 6 del mattino quando arrivammo alla piccola fattoria. Mi presentò ai suoi amici, una donna e un marito, 3 ragazzi e un giovanotto 20enne, tutti italiani con gli occhi neri. Parlò loro nella sua lingua, evidentemente per spiegare che era un'amica. Allora mi sorrisero e ci diedero da mangiare. Più tardi Mallettini mi condusse nel capannone vicino alla fattoria, dove nel soppalco per il fieno era stato ricavato uno studio con annesso laboratorio chimico. Lì mi spiegò quello che stava facendo e io mi sentii come un'adepta che viene iniziata a un ordine segreto. Ma di fatto era esattamente quello che mi stava accadendo. «Berta», esortì solennemente, «io appartengo a un piccolo gruppo che sta cercando di far scoppiare la rivoluzione in Spagna, in Italia e in America. Qui in America progrediamo lentamente, e sai perché? Perché non siamo stati capaci di formare un tipo di donna rivoluzionaria, intelligente e coraggiosa. Le donne americane vogliono avere amanti, vogliono stare in compagnia e divertirsi. Così la vedo io. Possono amare un uomo, ma non gli uomini. E tu, Berta, sapresti imparare ad amare gli uomini, il popolo e la classe lavoratrice più di quanto ami un singolo uomo o pochi uomini, più di quanto ami la tua famiglia, più di quanto ami te stessa?» Per un attimo non seppi che cosa rispondergli, come esprimergli in modo convincente ciò che volevo dire. Poi gli presi la mano e la baciai. «Consentimi di aiutarvi», implorai. «Dammi la possibilità di dimostrare che vi sono devota e che sono disposta a fare qualsiasi cosa per amore del popolo». Trascorremmo insieme tutta la giornata, in pace e tranquillità. Mi parlò della sua vita. Aveva una moglie e 4 figli in Italia. Militava nel movimento rivoluzionario fin dall'età di 14 anni, cioè da oltre un trentennio. Era stato in carcere, poi in esilio. Alla fine si convinse che avrei potuto essere utile al suo movimento. «Berta», disse, «se vuoi veramente servire il popolo, puoi farlo. Ti affiderò un compito molto importante. Torna a casa. Verremo da te mercoledì prossimo, alle 4 del pomeriggio. Trascorsi la sera di martedì in compagnia di Ena a fare progetti per il futuro. Mi lesse alcune lettere della mamma che aveva lasciato temporaneamente la home colony per partecipare a una campagna in favore di una riforma carceraria. Frank e Margaret lavoravano a St. Louis. La mamma diceva di essere stanca di viaggiare. Voleva tornare alla terra e sperava di riuscire a comprare una piccola fattoria nel North Dakota. «Voglio avere un posto dove i miei figli possono venire a riposarsi quando ne hanno voglia», scriveva. Rivelai a Ena che l'indomani sarei andata a Chicago con Mallettini per una missione importante. Mi scongiurò di metterla a parte di quel segreto. «Berta, se è una cosa veramente importante, voglio venire con te e dovremmo dirlo alla mamma». Ma io le dissi che dovevo andare sola. La mattina seguente tornai da Edith a prepararmi. Mallettini doveva arrivare alle 4. Tuttavia, prima di quell'ora capitarono Sir Mille Amori, Jordan e un gruppo di vagabondi e cominciammo a bere. Dopo la spiacevole esperienza con le donne del dormitorio municipale, non avevo più bevuto molto. Quel giorno, però, ci diedi dentro. Alle 4 ero già ubriaca, fradicia, credo, e Mallettini mi trovò a letto con Mille Amori e con Jordan. Cercò di svegliarmi, scuotendomi delicatamente. Mi alzai, ma avevo la vista annebbiata, barcollavo, stavo male. Farfugliai qualcosa. Mallettini mi guardava muto. Sbronza com'ero, gli leggevo chiaramente in viso la delusione, la pena, poi se ne andò. Improvvisamente mi si schiarì il cervello, come se qualcosa mi avesse colpito alla testa, con un asciugamano bagnato. Vidi Jordan e Mille Amori che dormivano. Le loro facce da ubriachi erano ripugnanti. In un impeto di furia afferrai una lampada da tavolo, la strappai dalla presa e la picchiai sulla testa di Jordan, fuori di me. Cominciai a tempestare di pugni Mille Amori. «Miserabili, schifosi ubriaconi, guardate che cosa mi avete fatto!» urlai. 3 giorni dopo lessi in prima pagina sul New York Times: 30 illustri cittadini avvelenati durante un banchetto al College Club di Chicago. 2 esimi cattolici, un laico e un arcivescovo avvelenati durante un pranzo da $7 a portata. Dopo un cocktail e un antipasto, il menù prevedeva una minestra. Pochi minuti dopo aver sorbito la minestra, un centinaio di commensali ha manifestato sintomi di avvelenamento acuto. La polizia sospetta un giovane anarchico di nome Jeans, scomparso subito dopo che la minestra era stata cucinata. Nel suo armadietto la polizia ha trovato alcune lettere di Mallettini, che si suppone essere l'organizzatore dell'attentato. E rammentai: tu non comprendi. Ora comprendevo. Il giorno seguente ricevetti una lettera di 3 parole da Otto. Ciao bella, Otto. Veniva da San Francisco. Nella busta c'erano $300. Improvvisamente ebbi la certezza di ciò che volevo fare, andarmene da New York. Con l'autostop o su un merci, non avrei viaggiato abbastanza in fretta, perciò mi comprai qualche vestito e un biglietto di prima classe fino a Chicago. Per chi o per che cosa non lo sapevo neppure io. Libri ribelli. Libri ribelli.